Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. Il 64% degli italiani boccia il ritorno del maestro unico nella scuola elementare. Lo dice un'indagine Eurispes. Al 62% non piacciono le classi ponte pensate per colmare le lacune linguistiche degli studenti stranieri. Il 58% invece apprezza il ritorno dei voti in numeri. Il 62,5% la reintroduzione del voto in condotta. Pagelle digitali ed SMS ai genitori per avvisarli delle assenze dei figli. Se ne parla da una settimana di questo annuncio del governo. Meno carta e più tecnologia nelle scuole per garantire risparmi e maggiore efficienza. Ovviamente tutti d'accordo sul principio di risparmio ed efficienza. Ma la nostra scuola è pronta per queste novità? Per capirlo siamo entrati in una scuola di Roma che ce l'ha davvero messa tutta per mettere tutti intorno ad un computer, genitori, segreteria, insegnanti. Esperimento fallito, il racconto di Paola Nania. Il liceo Pilo Albertelli ha una storia lunga 130 anni. Lungo i corridoi ci sono le targhe che ricordano gli studenti caduti durante la Prima Guerra Mondiale e l'attestato con cui Firenze ringrazia l'istituto per aver contribuito a salvare i libri dopo l'alluvione del 1966. Storia lunga e voglia di sperimentare. Proprio qui l'anno scorso è stato introdotto un sistema di controllo digitale delle assenze. I genitori potevano verificare in tempo reale, via internet o via telefono, se il figlio avesse marinato o meno le lezioni. Un sistema che ricorda la svolta annunciata dal ministro Gelmini, pagelle online e assenze segnalate a mamma e papà via SMS. Peccato che le difficoltà, pochi soldi e poco personale hanno bloccato la novità. Davanti all'ingresso del Pilo Albertelli parliamo con alcuni studenti. I genitori non consultavano su internet, quindi era abbastanza inutile, uno spreco di soldi. Nessuno andava a verificare se eri in classe o meno? Quasi nessuno, cioè mio padre si era andato due volte e neanche funzionava, non c'era scritto, niente. Lo aggiornavano dopo, ma neanche sempre, quindi non funzionava. Tu che esperienza hai avuto? Non so, ti è capitato? I tuoi genitori hanno mai guardato? Stavo in questa scuola, io stavo a Righi, però posso dirti guarda che a scuola mia c'è un sistema molto simile. Adesso, quest'anno? Quest'anno, sì. Oh. Che tra l'altro va a discapito delle lezioni perché all'incirca verso la seconda ora passa un responsabile di questo sistema e sulle delle tabelle segna assenti e presenti e questo va... Che vanno su internet poi? In teoria sì, però adesso non so sinceramente quanto ti venga applicata questo sistema. Non l'hai mai guardato su internet? No, per personalmente no, poi anche perché il sito della mia scuola non è sempre aggiornato. Però ecco, questa è una soluzione che sì, è positiva, però interrompe la maggior parte delle lezioni perché ogni 10 minuti durante la seconda ora passa qualcuno con una tabella e segna tutto quanto. Senti, che scuola hai detto che frequenti? L'Augusto Righi. Dov'è? Che sta a Piazza Fiume. È un liceo? Sì, un liceo scientifico, non è un classico. Cioè, alla fine è andato male sta cosa, non ha servito a niente, ma hanno ricambiato un'altra volta. Adesso qualche sistema c'è? Adesso sta tornando a quello vecchio, normale, perché ieri l'anno l'hanno provato, non sono riusciti, ma solo in centrale. Su Cusano invece era rimasto il libretto di sempre. Non era andato bene, però le assenze ho sentito che erano diminuite l'anno scorso. Sicuramente sono diminuite, perché comunque anch'io non ho fatto tante assenze. Però forse perché anche la paura, diceva poi mia madre vede di qua e di là. Quindi uno cercava sempre di diminuire sia di entrare in seconda che le assenze. Diciamo che se uno non ha problemi in famiglia, grosso modo, non si hanno nemmeno problemi a far sapere le assenze o meno. Quindi, però insomma si diceva che qualcuno non era contentissimo tra i ragazzi. Sì, forse è un po' eccessivo perché appunto bisognerebbe avere più fiducia nel rapporto tra figli e genitori. Cioè il discorso che facevo che non vi erano problemi a far sapere le assenze vale anche al contrario, proprio perché non ci sono problemi. Non c'è bisogno di... Però insomma le assenze dicevano fossero diminuite l'anno scorso con questo sistema. Ma i modi per farle, i modi per tenerlo nascosto comunque sono sempre, quindi c'erano anche l'anno scorso. Qualche passo e ci avviciniamo alla presidenza. Fuori, su una bella panca di legno, ci sono due genitori con la figlia. La scuola aveva delle difficoltà per inserire dei dati, quindi non era aggiornato, non mi dava accesso alla fine. Ah, non era aggiornato? Non era, presumo, perché non riuscivo mai ad arrivare proprio... Effettivamente anche non ci abbiamo mai avuto bisogno di controllare. Esatto, quindi non è capitato tante volte che voi... No, perché io ho piena fiducia a mia figlia. Comunque in via di principio l'idea di poter eventualmente verificare... Sì, sì, è una cosa buona secondo me, anzi... Magari l'altro figlio, magari pure sì, insomma... L'altro è un po' più irrequieto. No, maschietti. No. Per sapere qualcosa di più preciso, bussiamo alla porta e parliamo con la preside Emilia Marano. L'abbiamo adottata in via sperimentale l'anno scorso. Per tutto l'anno? L'abbiamo adottato per tutto l'anno, lasciando fuori la succursale, per poi decidere, anche perché ha un costo, ha avuto un costo questo programma, e credo che abbiamo speso quasi 10.000 euro, insomma, perché i registri sono elettronici e costano, mentre il registro di classe che usiamo normalmente costa pochi euro, quello costava dai 10 euro in su. E poi non ne dovevi prendere uno solo, ma due, uno per il primo periodo, l'altro per il secondo periodo. E in questo registro c'erano delle schede su cui i professori la mattina dovevano segnare le assenze e i ritardi. Poi a quel punto i dati venivano trasferiti su internet? Poi passava per le classi a una certa ora o alla fine della mattinata il personale, cioè i collaboratori scolastici, passavano a ritirare queste schede e qualcuno in segreteria doveva inserire poi tutto ciò che veniva fuori, alunno per classe, alunno per alunno. Su internet. E i genitori sia sul computer, perché poi al momento dell'iscrizione noi gli avevamo dato un libretto che si chiamava libretto elettronico, che non è il solito libretto dei ritardi, delle assenze, era elettronico. Nel senso che aveva un codice privato, tipo PIN, insomma un codice personale, ogni alunno aveva un codice, il genitore digitando quel codice sul telefono, perché avevamo pensato che tanti potrebbero non avere il computer ancora, perché non tutti sono computerizzati. Quindi o su internet o via telefono potevano conoscere i ritardi e le assenze dei loro figli in tempo in giornata. Naturalmente questo però ci ha creato qualche problema, purtroppo, dico naturalmente, perché purtroppo è stato così, perché in segreteria non abbiamo tanto personale. Lei per una cosa del genere ci vorrebbe almeno una risorsa dedicata. Prima ci vogliono i soldi, perché costa. Quindi la cosa non è andata. No, i genitori erano entusiasti, noi ce l'abbiamo messa tutta per farlo funzionare, abbiamo fatto lavorare i tecnici di laboratorio, ci abbiamo fatto lavorare su queste schede, però non siamo riusciti alla fine dell'anno, insomma, a poter dare un servizio completo, perché genitore mi diceva non era possibile accedere sempre. A parte che poi la linea non sempre ha funzionato, devo dire la verità, e quindi non per colpa nostra. Bisognerebbe perfezionare tutte queste cose, prevedere un personale adatto, idoneo, perché è positiva questa cosa. E infatti anche il ministro ha annunciato. Sì, a noi piace, per carità, a me è piaciuta subito, ai genitori è piaciuta, ai ragazzi un po' meno, devo dire. E infatti quando hanno saputo che ritornavamo al vecchio libretto di giustificazione hanno un po' gioito. 10 e lode. E questa è davvero una bella notizia per tutti noi alle prese entro fine mese con l'iscrizione dei nostri figli a scuola, perché non è per niente facile scegliere la scuola giusta. Tutti noi vorremmo il meglio, ma come si fa a capire cosa è meglio? Questo è il punto. Parliamo con qualche professore, andiamo tutti alla giornata di presentazione, parliamo con qualche altra mamma, ma alla fine la garanzia che quella scuola sia buona ce l'avremo solo facendo esperienza sulla nostra pelle. Da quest'anno però abbiamo uno strumento prezioso in più. La Fondazione Agnelli, infatti, si è messa a dar pagelle, ma non ai ragazzi questa volta, bensì proprio alle scuole. In particolare queste vengono giudicate in base alle performance dei diplomati all'università, quindi voti e tempi di laurea. Insomma, se uno ha fatto una buona superiore, i risultati si dovrebbero vedere proprio all'università. L'11 febbraio verrà pubblicata l'intera ricerca e quindi la classifica di tutte le scuole. Per il momento è stata diffusa quella relativa al Piemonte e si può già trarre qualche conclusione. Le scuole pubbliche sono meglio di quelle private, quelle di provincia sono meglio di quelle delle grandi città. E la prima in classifica? Il liceo Rimondi di Savigliano, in provincia di Cuneo. L'entusiasta preside Domenico Vanzetti, è come dargli torto. Ho trovato in questa scuola un buon clima di serietà nel lavoro, una sinergia nel rapporto fra insegnanti e genitori e soprattutto un buon rapporto fra insegnanti e studenti. La presenza, per esempio, di uno sportello, che non è solo lo sportello psicologico a disposizione degli studenti, dei genitori, degli insegnanti, ma uno sportello per aiutare i ragazzi che si trovino in particolare difficoltà. E tra l'altro uno sportello non soltanto offerto dagli insegnanti, ma anche dai pari, cioè da ragazzi degli ultimi anni della scuola del liceo, classico e scientifico, che si mettono a disposizione dei loro compagni che hanno qualche particolare difficoltà, e questo sicuramente aiuta. Poi penso che un altro motivo sia quello di aver attivato da anni la matematica con il piano nazionale informatica, il piano PNI, e questo consente di arrivare all'università, specialmente nelle facoltà scientifiche, con un buon bagaglio culturale, formativo, buone competenze matematiche e buone competenze scientifiche. In cui sappiamo che noi italiani non siamo un granché, insomma. Sì, noi appunto abbiamo già voluto potenziare l'insegnamento delle scienze perché, per esempio, abbiamo attivato un percorso chiamato Master nell'ambito del liceo scientifico, nel corso del quale noi attiviamo laboratori di chimica e di fisica a partire dal primo anno di scuola. Certamente i ragazzi che vanno all'università si trovano sicuramente con un bagaglio culturale formativo migliore, insomma, ecco, penso che questo sia uno dei motivi. Poi c'è l'attivazione di gruppi di lavoro da parte degli insegnanti, di orientamento in uscita, con attività che partono già dal primo anno, cioè si vede questi ragazzi, futuri frequentatori delle facoltà universitarie, quindi c'è la sensazione, la necessità di mettere loro in condizione, i ragazzi in condizione, di cominciare già a prevedere fin dai primi anni quali percorsi universitari intraprendere. Questo significa che già nel corso degli anni i ragazzi si sottopongono alle cosiddette prove TARM, cioè prove per simulare i test di ingresso universitari. Quindi forte attenzione per quanto riguarda l'orientamento, che è davvero una cosa rarissima nelle nostre scuole, sì, di modo che i ragazzi non scelgano l'ultimo mese dell'ultimo anno la facoltà, no, e soprattutto non la scelgano casualmente. Assolutamente no. È tutto, ci risentiamo sabato prossimo alle 12.45.